Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Vi sarà capitato, mentre fuori infuria un temporale, di ritrovarvi in una casa all'improvviso buia e silenziosa. Un moto di stupore, un brivido di panico leggero e poi via, tutti alla ricerca di una candela dentro a un cassetto, un mozzicone di cera abbandonato chissà dove, mentre un fulmine rischiara quel tanto che basta per accenderne la miccia. In attesa che la luce elettrica ritorni, ci si consola, sussurrando: un tempo tutto questo era normale. La memoria dei libri di scuola ci riporta ai tempi del fuoco rubato alla natura e portato in una grotta, al lento consumarsi di candele che illuminano il buio medievale, agli omini vestiti di nero armati di un bastone teso verso la sommità di lampioni a gas di fine Ottocento. Il poliziotto le si avvicinò e le disse qualche cosa. Lei si allontanò a passi incerti, ridendo. Una fredda folata di vento spazzò la piazza. Le fiamme dei lampioni a gas tremolarono e assunsero un colore blu. Gli alberi spogli agitarono i rami di nero acciaio. Rientrò rabbrividendo e chiuse la finestra dietro di sé. Oscar Wilde, l'autore di questo brano tratto dal Ritratto di Dorian Gray, è contemporaneo di un uomo destinato a cambiare la vita di tutti noi e a contribuire al precoce ma inevitabile licenziamento dell'omino della lampada a gas. Nel 1878 Thomas Alva Edison, inventore e imprenditore americano, sta mettendo a punto un'invenzione rivoluzionaria: la lampadina elettrica con filamento a incandescenza. Con i suoi collaboratori è fermo e risoluto. Credo che da qualche parte nella bottega di Dio Onnipotente ci sia un vegetale costituito di fibre geometricamente parallele adatte al nostro scopo. Cercatelo! Trovato finalmente il materiale adatto nelle sperdute lande del Giappone centro-meridionale, nel 1880 Edison registra il brevetto per la lampada elettrica a incandescenza. Forse non è del tutto consapevole di quanto la minuscola fibra di bambù messa sotto vuoto influenzerà gli anni a venire. Quando poco meno di un secolo dopo, nel novembre del 1965, un improvviso blackout colpisce la città di New York, lasciandola al buio per molte ore, la gente capisce come mai prima l'importanza di Edison e delle sue scoperte. Le accecanti luci di Manhattan, simbolo di frenesia e modernità, sono le prime a spegnersi, lasciando il posto alle tenebre, rischiarate solo dalla luna piena. New York, con un aspetto surreale, diviene un immenso groviglio di automobili impazzite. Migliaia di persone sono bloccate nelle metropolitane, negli ascensori, negli ospedali. Iniziano episodi di saccheggio e violenza, ma anche di solidarietà ed eroismo. E, 9 mesi dopo, un sensibile ma prevedibile aumento delle nascite. Beh, ormai è chiaro che oggi a Destini Incrociati facciamo luce sulla luce e sull'impatto che la sua versione artificiale ha avuto nei primi anni del secolo scorso grazie all'invenzione di Edison. In particolare, di come Milano, prima in Italia grazie alle capacità e all'intuizione di 2 suoi cittadini, ne abbia sfruttata pieno l'enorme potenzialità. Prima di conoscere i nostri personaggi, trasferiamoci con un salto indietro nel tempo al 1 gennaio 1884. Procuriamoci un frac o un lungo ed elegante vestito da sera e facciamoci portare nella nostra carrozza in via dei Filodrammatici. Al teatro alla Scala ci attende la prima di uno spettacolo che toglierà il fiato a tutti i presenti. Ad accoglierci all'interno del Tempio della Lirica, in luogo dell'abituale lampada a candele situata nella ribalta, ci sono 2880 lampadine pronte all'accensione che ci permetteranno di trovare facilmente il nostro posto nella famosa platea a forma di ferro di cavallo. Intorno a noi mormorii di stupore e meraviglia, mentre gli occhi da poco abituati al bagliore ci permettono di cogliere nitide come mai prima le decorazioni neoclassiche. Da qualche parte, defilato tra le autorità del palco reale, c'è uno degli artefici di questo spettacolo che presto si accingerà a trasformare Milano in una città di luce e vita. Il suo nome è Giuseppe Colombo. Giuseppe Colombo. Un sogno, e la realtà viva. È una città borghese a passeggio sotto la cupola di vetro della galleria, vociante nei caffè, o radunata all'ippodromo di San Siro. Uomini in abito da cocktail, signore nei foulard e bambini che corrono dietro cerchi di legno. Una Milano d'altri tempi, dipinta dai maestri della pittura fin da siècle che nelle loro immagini non trascurano di registrare, abbracciando i modi della pittura verista, il volto di una città più umile ma piena di atmosfera. Una città pronta ad accogliere a braccia aperte una seconda rivoluzione industriale, che presto porterà in dote nuove invenzioni tecnologiche, una serie di strumenti, macchine e oggetti che diventeranno parte integrante della vita quotidiana. Il motore a scoppio, gli pneumatici, il telefono, il grammofono, il cinema e naturalmente le tecnologie applicate a una nuova e rivoluzionaria forma di energia, l'elettricità. Platone, il filosofo greco, ne parla nel dialogo Il Timeo, nel 360 a.C., con queste poetiche parole. Si spiegano così lo scorrere delle acque, la caduta dei fulmini e la meravigliosa forza di attrazione dell'ambra e della calamita. In nessuno di tutti questi oggetti vi è la forza attraente, ma poiché il vuoto non c'è, questi corpi si respingono in giro l'uno con l'altro e separandosi e congiungendosi cambiano di posto e vanno ciascuno nella propria sede. L'uomo che ha illuminato la Scala a giorno e che doterà Milano e l'Italia della prima centrale elettrica è solo un ragazzo che di Platone studia l'opera nei banchi del liceo Sant'Alessandro, quando il 6 febbraio 1853 in città scoppia una sanguinosa insurrezione popolare anti-austriaca. Quella che sarà ricordata come la rivolta di Milano, fallimentare episodio del risorgimento italiano, che vede restare sul campo di battaglia la vita di 30 uomini e donne tra soldati austriaci e insorti, lascia in Colombo un profondo senso di insofferenza verso qualsiasi manifestazione di violenza. Quello stesso anno, Giuseppe si iscrive all'Università di Pavia. Ha solo 17 anni. È convinto che il mondo si possa cambiare con la cultura e il progresso, e non con le armi e la violenza. Studia duramente, non manca mai a una lezione. La sua curiosità è vorace. Non tarda molto a farsi notare e a diventare allievo prediletto di Francesco Brioschi, futuro fondatore del Politecnico di Milano. Dal professore assorbe un grande interesse verso la scienza e l'industria e impara a coniugare le due visioni in un unico insieme di cui diverrà un maestro. A 20 anni si laurea in ingegneria e grazie alla grande stima che in lui ripone Brioschi ottiene l'incarico di professore di geometria e meccanica alla Scuola di Incoraggiamento d'Arti e Mestieri di Milano. È qui che inizia la sua carriera di docente, attività che svolge per tutta la vita e che gli permette di incrociare il suo destino con quello del nostro secondo personaggio. I giorni elettrici che lo vedranno protagonista sono ancora lontani, ma dall'altra parte dell'oceano le osservazioni e le scoperte di Galvani e Faraday, grazie all'applicazione e alle invenzioni di Edison, stanno iniziando a rivoluzionare il mondo. Thomas Alva Edison is famous as the inventor of the light bulb. But another one of his early inventions has proven at least as illuminating over the years. Per un qualche imperscrutabile disegno del destino, Edison e Colombo nascono in due città che portano lo stesso nome. La Milano Meneghina di Giuseppe è naturalmente di più antica fondazione e non è dato sapere se i pionieri americani che hanno battezzato Milan, il loro insediamento coloniale nello stato dell'Ohio, avessero origini italiane. Eppure è in questa cittadina sperduta all'ombra degli Appalachi che Thomas nasce nel 1847. Ad aggiungere ironia alla sorte non guasta ricordare che la capitale dell'Ohio si chiama Columbus. È solo geografia, ma forse anche destino. E i due milanesi si incontreranno un giorno in un luogo diverso da entrambe le loro città d'origine. Intanto in quei primi anni Ottanta sono diversamente affaccendati. Colombo è immerso nella sua attività di docente e divulgatore. Edison sta preparando un sistema per permettere di generare e distribuire l'illuminazione elettrica nelle case e negli uffici, attraverso la produzione di massa di lampade a lunga durata. L'inventore americano, perfetta sintesi di ingegno e capacità imprenditoriali, nel 1882 implementa la prima centrale elettrica della storia e dichiara con essa la fine della lunga notte senza luci dell'umanità. Not to cool down, so goodbye, the end of man. Here's hoping we meet down then. It was great fun, but it was just one of those things. Mentre Edison è intento a trasformare in elettricità l'energia generata dalle cascate del Niagara nella sua prima centrale elettrica, l'Italia non resta estranea allo sviluppo della fisica dei fenomeni elettrici. E quando la tecnologia inizia a proporre realizzazioni di utilizzo pratico, il terreno è pronto per accogliere la nuova meraviglia. Ma quali possono essere gli uomini adatti per una transizione che porterà un paese ancora arretrato e illuminato da lampade a petrolio nel futuro dell'elettricità? Gli esperti si contano in punta di dita, ma fra questi c'è Giuseppe Colombo, strenuo lettore di ogni pubblicazione di Edison, studioso di ogni sua scoperta e innovazione, e che vuole fare dell'utilizzo pratico dell'elettricità lo scopo della vita. Ne discute e insegna con passione nelle aule universitarie e nelle frequenti conferenze serali, dove ha modo di spiegare a studenti e cittadini i risultati degli studi e delle ricerche in corso in tutto il mondo. Vuole convincere i milanesi di qualcosa in cui lui già crede fermamente: portare la corrente elettrica a scorrere impetuosa nelle case e nelle aziende italiane. E se non sarà l'immensa forza delle acque del fiume canadese, un lungimirante Giuseppe è convinto che basteranno quelle dell'Adda a cullare il suo sogno. Verrà forse un giorno in cui le forze delle nostre cadute alpine saranno trasportate al piano, saranno distribuite di casa in casa, come si distribuisce l'acqua potabile ed il gas. Già si stanno facendo gli studi sulla possibilità di portare a Milano la forza dell'Adda alle Rapide di Paderno. Dall'America giunge sempre più chiara l'eco della forza illuminante delle centrali di Edison. Giuseppe è ancora più convinto, pare attraversato dalla stessa corrente di cui professa la necessità, e moltiplica gli sforzi divulgativi attraverso memorabili lezioni. Il passaparola tra gli studenti corre veloce e sono molti ad affollare le sue appassionanti lezioni. Tra questi, seduto tra i banchi di quello che sarà il futuro Politecnico, il modesto figlio di un panettiere di Varenna ascolta le parole del professore con la massima attenzione. Non sa ancora cosa farà della sua vita una volta presa la laurea in ingegneria, ma in qualche modo intuisce che si trova nel posto giusto, ad ascoltare le parole di uomini che come Colombo appaiono protesi in un futuro di cui l'ambizioso giovane vuole fortemente far parte. Non si sbaglia, presto il suo destino si incrocerà con quello dell'affascinante professore, e la sua vita e il suo futuro assieme alla Scala di Milano si illumineranno. Questo giovane studente si chiama Giovanni Battista Pirelli. Giovanni Battista Pirelli. Piccolo di statura, grande di ingegno e di cuore, era l'ingegner Pirelli. Limpido nel giudizio e fertile nell'azione, e di una dirittura esemplare nella vita d'affari come in quella privata. Fedele al lavoro costruttivo, anche quando per l'età raggiunta avrebbe avuto diritto al riposo. Cercò e conobbe pure nei periodi più intensi di tale lavoro le gioie spirituali della cultura. Amò il silenzio degli spettacoli di natura, così come il fervore delle discussioni con spiriti eletti. Con queste accurate parole, Alberto Pirelli descrive il padre Giovanni Battista qualche anno dopo la sua morte, nel 1932. Ma la storia di Pirelli prende il via molti anni prima, quando questi lascia la casa paterna non senza qualche rammarico. Una modestissima casa ove uniche dovizie erano la rettitudine e l'operosità. Pirelli, l'uomo che sarà il re della gomma, è figlio di Santino, il panettiere di Varenna, un uomo retto e onesto, come lo sarà il figlio per tutta la sua lunga vita, anche se farina e lieviti non fanno per Giovanni Battista. Anche la pesca, principale attività dell'ameno paesino adagiato sulle rive dell'Ario, non lo affascina. Lui vuole studiare e andare per il mondo. Gli va stretta quella vita da piccolo borgo laborioso che ha la sua massima punta nella festa di San Giovanni ogni 24 di giugno. Ed è sul suo futuro che spesso riflette osservando il lago illuminato a giorno con migliaia di lumaghit, lumini galleggianti abbandonati sulle acque, simboli celebrativi della festa. Sa che un giorno vicino se ne andrà, studierà a Milano e cambierà il suo destino. Quello che non sa, mentre nel 1861 si trasferisce a Milano per frequentare l'Istituto Tecnico di Santa Marta, che saranno altrettanto mille piccole luci a illuminargli presto la strada. Nel 1865, a 17 anni, è già iscritto all'Università di Pavia, che dopo il biennio propedeutico di matematica e fisica lascerà per il Politecnico di Milano. Ma gli studi, anche se seguiti con dedizione e successo, fanno presto spazio a un carattere ardimentoso e pronto a sposare la causa garibaldina. Sentiamo ancora le parole del figlio Alberto. Il suo spirito ardimentoso e aperto agli ideali della gioventù patriottica del tempo trovò espressione nel volontarismo garibaldino. E con Garibaldi egli combatté nel Trentino a 17 anni e a Mentana a 18. D'altra parte, la sua mente quadrata e incline alle discipline precise e severe della scienza e della tecnica già si era manifestata in quegli stessi anni negli studi di matematica e di ingegneria. Pirelli combatte mentre Edison illumina l'America. Colombo, ammirato, lo raggiunge per conoscerlo di persona. In quel viaggio oltreoceano intuisce che è al mondo che deve guardare, uscire dal cortile di Milano e d'Italia per capire cosa sta avvenendo nelle grandi piazze in quegli anni di trasformazioni e di nascita dell'industria. Al suo rientro continua indefesso nel suo lavoro di proselitismo, ma intuisce che deve fare qualcosa di più. Individuare qualcuno che abbia mente e gambe svelte e che impari in fretta cosa succede nel mondo. Tra i suoi studenti più brillanti, un certo Pirelli ingegnere fresco di laurea con la miglior votazione fra i candidati della sezione industriale, ha da poco ricevuto il premio Kramer, una delle due borse di studio da 3.000 lire che la nobildonna milanese Teresa Berra Kramer ha istituito in memoria del figlio ingegnere. La somma elargita è vincolata al preciso scopo di un viaggio di istruzione all'estero, al fine di studiare un'industria nuova o ancora poco diffusa in Italia. Esattamente ciò che pensa e che vuole Colombo. L'idea che gli si accende nella mente a mo' di lampadina presto illuminerà anche quella di Pirelli. Tra poco, a Destini Incrociati. Tell me now, baby, is it good to you? And can he do to you the things that I do? Oh, no. I can take you high. Destini incrociati. A Destini Incrociati è il 1 gennaio 1884 e alla Scala di Milano 2880 lampadine a incandescenza illuminano a giorno la platea. Uno spettacolo che Giuseppe Colombo, ingegnere, e Giovanni Battista Pirelli, futuro re della gomma, hanno allestito per i loro concittadini. Ma come ci sono riusciti? Quali strade hanno percorso per riuscire a stupire la Milano che conta, pronta a godersi lo spettacolo di una prima nel senso dell'opera lirica, ma anche di un futuro che di lì a pochi anni giungerà ad accompagnare un nuovo secolo? Colombo, studiate a fondo le tecnologie e gli impianti americani di Edison, 2 anni prima ha ricevuto l'incarico dal Consiglio Comunale di costruire la prima centrale elettrica italiana. Il secondo, consigliato e convinto proprio dal professore, è rientrato da un lungo viaggio di studio e di ricerca in Europa. 6 novembre, Coira. Una piccola filatura di cotone diretta dal signor Hoffman, di nessuna importanza. Ho visitato con Paladini l'officina di riparazione della stazione. Si aggiustano e si fanno vagoni. Non vidi far altre operazioni fuorché tornire delle ruote. Credo non vi si faccia altro. Inizia così il diario che Pirelli tiene lungo il viaggio di istruzione all'estero, 12 mesi in Europa a studiare il fenomeno nascente dell'industria. Pirelli è motivato e impaziente quando parte dalla stazione di Milano dando sfogo al desiderio di bambino che guardava uno spicchio di lago sognando in grande. A spronarlo nel programma di viaggio e ricerca è il suo professore del Politecnico, quel Giuseppe Colombo che da qualche anno è uno dei massimi esperti italiani di energia elettrica. Colombo ha visto in Pirelli del talento, il suo stesso instancabile desiderio di conoscenza. Lo convince che il viaggio sarà l'opportunità per imboccare nuove strade legate all'innovazione nell'industria e per non perdere il passo con il resto d'Europa. Se l'elettricità sarà parte importante di questo processo, allora lo saranno anche le sue applicazioni pratiche. Colombo è anche convinto che tra queste possa esserci la lavorazione di un idrocarburo polimero estratto da una pianta del bacino del Rio delle Amazzoni che inizia a essere lavorato soprattutto nell'Europa del Nord. Si tratta del caucciù, o più comunemente la gomma elastica. Pirelli, convinto da Colombo, parte e si mette sulle tracce di quello che nel suo diario di viaggio definisce in francese caucciù. Lo paragona a una ritrosa signorina della buona società mitteleuropea che sempre gli sfugge un attimo prima di invitarla a un ballo. Il prodotto che cerca di conoscere è nuovo e si presta a un eccitante sguardo nel futuro, a tal punto che il suo approccio di ricerca diviene simile a quello di un incontro tra due giovani che vorrebbero qualcosa di più di una semplice amicizia. È lui stesso a fornirne l'ironica descrizione nel diario di viaggio miracolosamente trovato da un'operaia Pirelli tra le macerie dello stabilimento di via Ponte Seveso, bombardato nel 1943. Dopo averle fatto la corte in tutti i modi possibili, son finalmente riuscito a farmi presentare a quella ritrosa madamigella che è l'industria del caucciù. Ciò è successo a Mannheim. Presentazione, 4 parole, un giro nelle sale e poi la me scappata. Tanto che più in là dell'acconciatura del capo non sono arrivato con le mie osservazioni. Spero di rivederla a Berlino. Tuttavia, l'incontro con il destino e la ritrosa madamigella caucciù non avverranno a Berlino, bensì a Parigi nell'agosto del 1871. Pirelli è sempre più attratto da ciò che intuisce si possa realizzare con questo materiale elastico e duttile, ma molto resistente e che si presta a svariate applicazioni. A presentargli finalmente la futura compagna di una vita di lavoro è Antoine Aimé Goulard, un fabbricante di tubi di gomma vecchia conoscenza di Giuseppe Colombo. È il professore a esortarlo via lettera a recarsi a Parigi dall'amico, ma la fabbrica di Goulard è da poco stata rasa al suolo dai prussiani. Pirelli non si abbatte. Insiste con Goulard affinché in ogni modo lo accontenti. Il commerciante parigino, che deve un favore all'amico Colombo dai tempi di un soggiorno milanese, decide così di presentare a quel giovane ansioso italiano un concittadino di nome François Casassà, anch'egli fabbricante di articoli in gomma. È l'incontro giusto, quello decisivo. Pirelli sente di essere vicino alla meta quando l'odore di gomma vulcanizzata penetra nelle sue narici una volta varcata la soglia dell'officina del gommista di Parigi. È una piccola fabbrica, ma il signor Casassà, da operaio abile, poté in poco tempo montarsi una piccola officina, la quale a poco divenne quello che è oggi, guadagnando in una dozzina d'anni una mezza fortuna. Casassà e la sua piccola fabbrica sono per Giovanni Battista il momento cardine del viaggio e del futuro, di quella che oggi è una delle più importanti industrie della gomma nel mondo. È affascinato e rapito dalle capacità artigianali del francese, che riesce a modellare, da stampi creati appositamente per lui, ogni genere di articolo di gomma. Oggetti a volte senza ancora una vera e propria destinazione d'uso. Pirelli intuisce che il mondo della gomma nasconde infinite variazioni sul tema e che la sua fantasia al proposito potrebbe non avere limiti. Definitivamente convinto, scrive a Colombo del suo entusiasmo e dei progetti futuri che prevedono di portare Casassà a Milano, socio nell'azienda che andrà a fondare al suo rientro in Italia. Colombo è a sua volta entusiasta dei progetti dell'allievo e spinge perché si rechi in Inghilterra, patria riconosciuta della nascente industria della gomma. Ma questa volta non riesce a convincere Pirelli, che in una lettera a un amico liquida la questione con le consuete brillanti parole. Egli mi dice tante belle cose, ma non se ne dà per inteso che il pecunia è un po' scarso. Anzi, mi domanda se conto d'andare in Inghilterra. Sì, c'ha pieno un alter. Io non so se gli altri sappiano viaggiare più convenientemente di me, ma io posso loro dimostrare che con l'itinerario che vado sviluppando non 10, ma 15 lire non basterebbero. Se tu vedessi come sanguina la mia borsa... A causa dunque della leggerezza delle saccocce e stanco di vagare per l'Europa, il 31 agosto 1871 Pirelli rientra a Milano. Ha le idee chiare e il giovane studente è diventato un uomo forgiato dai chilometri e dalle esperienze di un viaggio straordinario. Il suo futuro sarà nell'industria della gomma, come ampiamente predetto dal suo maestro Colombo. Il tempo di raccogliere qualche aiuto economico e a soli 6 mesi dal suo rientro bussa alla porta del notaio All'Occhio in Milano. Il 29 gennaio 1872, in quello storico studio Meneghino, Giovanni Battista firma l'atto di nascita della G.B. Pirelli e C. Intanto Giuseppe Colombo è alle prese con una sfida eccezionale. Non ci pare che si tributi una sufficiente attenzione a un'altra questione di pari importanza, la trasmissione della forza a grandi distanze. Dove il combustibile è caro, dove non se ne hanno depositi, perché non si pensa sul serio a valersi degli straordinari mezzi che ci offre la natura e non si studiano i modi per riuscirvi? Se il problema della trasmissione della forza a grandi distanze fosse risolto, esso non solo potrebbe mutare la faccia di un paese e creare l'industria là dove ora non ha i mezzi per svilupparsi, ma allontanerebbe anche l'epoca e la possibilità di quella crisi che già fin d'ora la questione dell'esaurimento del carbon fossile fa prevedere e temere. Con queste parole incredibilmente attuali, riportate nell'annuario scientifico industriale del 1866, Colombo intuisce il ruolo cruciale e il possibile sviluppo legato all'evoluzione delle applicazioni elettriche e fin da allora si attiva nel dare concretamente vita a un'industria elettrica milanese. Nel 1876 Piazza del Duomo è illuminata da 5 fari elettrici alimentati a dinamo e nel 1880 è il Caffè Gnocchi, in galleria, a essere illuminato elettricamente. L'anno successivo la Galleria Vittorio Emanuele è illuminata a giorno da 25 potenti lampade ad arco e sempre per iniziativa di Colombo e con il sostegno finanziario di importanti banche milanesi si costituisce il comitato promotore per le applicazioni dell'elettricità Sistema Edison in Italia. Nel 1882, ricevuto l'incarico per la centrale, Giuseppe decide di partire per New York. Vuole conoscere personalmente Edison e definire con lui tutti i particolari del progetto. Il viaggio porta i frutti sperati e un rinnovato entusiasmo in Colombo che nel giro di pochi giorni conclude la trattativa per l'acquisto dei macchinari necessari. Al suo rientro, Giuseppe, per l'installazione degli impianti, sceglie una piccola area compresa tra le vie Santa Radegonda e Agnello, nei pressi del Duomo. Adiacente alla centrale, fa costruire una ciminiera in mattoni di 52 metri che si vede chiaramente svettare di fianco al Duomo in molte fotografie dell'epoca, ma che indispettisce alquanto i Meneghini, non ancora assuefatti allo smog e quindi inorriditi alla vista di pennacchi di fumo nero che ne escono. Tuttavia, quelli di Colombo sono tempi nei quali pensare in maniera ecologica è cosa lontana da venire. Ora per Milano è il momento di mostrare i muscoli grazie alla potenza delle 4 dinamo capaci di produrre 350 kW complessivi, molto modesti ai nostri occhi ma certamente cospicui per una città che per ora può usufruire della novità dell'elettricità solo nelle case di pochi e danarosi cittadini e in alcuni negozi e locali dell'area. Tra questi vi è il Teatro alla Scala, per il quale Colombo sta preparando un'eccezionale sorpresa per l'inaugurazione della stagione lirica del 1884. Per farlo avrà però bisogno del vecchio amico e allievo Giovanni Battista Pirelli. Tra poco, a Destini Incrociati. Se vuoi, io te ne parlo. Anche se non mi senti. Forse sei impegnato in qualcosa di importante. Destini incrociati. A Destini Incrociati stiamo seguendo le vicende di due ingegneri milanesi che alla fine del XIX secolo hanno fatto la storia della loro città e in parte dell'Italia. Uno, Giovanni Battista Pirelli, è il pioniere della gomma elastica in Italia e fondatore di un'azienda che ancora oggi ha 140 anni dalla sua fondazione e tra le più importanti del nostro paese. L'altro, Giuseppe Colombo, è un professore innamorato dell'elettricità e delle sue applicazioni pratiche congegnate da Thomas Edison negli Stati Uniti. Insieme stanno per regalare a Milano un futuro pieno di luce. Pirelli è sempre più immerso nel mondo del caucciù. Il lavoro non gli manca, ma ancora stenta a individuare un prodotto che possa lanciare la sua azienda in modo definitivo. Colombo, nello stesso periodo, ha invece altri problemi. Il percorso della rete elettrica della centrale di Santa Radegonda alla Scala lo preoccupa. L'accensione simultanea di quasi 3.000 lampadine a incandescenza richiede una tensione elettrica molto elevata e, nonostante la distanza non sia eccessiva, teme un sovraccarico. La sfida è importante, vitale per il futuro dell'elettricità in Italia. Alla prima, come sempre, sarà presente tutta la Milano che conta, sa che non può fallire. Colombo pensa di coinvolgere Pirelli perché sente che quel percorso iniziato nelle aule del Politecnico, passato attraverso un giro dell'Europa e la fondazione di un'azienda che sta lottando per la sua affermazione, può finalmente trovare compimento. Forse l'ha sempre saputo e ha disegnato una traccia che il destino ha seguito fino a quel momento. È deciso. Sarà Pirelli a costruire per lui i cavi in gomma della lunghezza e della consistenza sufficiente a trasportare la corrente necessaria a uno spettacolo che sarà insieme stupefacente e storico. Sono del 1879 i primi tentativi di fabbricare fili telegrafici isolati per il genio militare. All'ingegner Pirelli era apparsa l'importanza che i conduttori elettrici dovevano assumere con lo sviluppo dell'elettrotecnica, per la quale quegli anni si dimostravano decisivi. Fu quella dei conduttori elettrici una delle prime produzioni che l'ingegnere Pirelli osò impiantare in Italia, quando ancora nessun altro paese al mondo, all'infuori dell'Inghilterra, l'aveva iniziata. Quelli che oggi si definiscono cavi energia nascono dunque tra il 1879 e il 1880 dagli stessi conduttori isolati utilizzati dagli inglesi come linee telegrafiche e costituiti da un filo di rame infilato in un tubetto di gomma a sua volta rivestito da una treccia di cotone catramato. La Pirelli EC fiuta immediatamente l'opportunità. Ancora le parole di Alberto Pirelli. A Milano, per iniziativa del senatore Colombo, cui si associava anche l'ingegner Pirelli, si fondava nel 1883 la Edison e fa piacere ricordare che essa fu la prima società creatasi in Europa a tale scopo. La distribuzione era fatta a 125 volt. I cavi erano posati in cunicoli di legno o di mattoni e cemento o anche in tubi di ferro. Colombo non ha difficoltà a convincere l'ex allievo. I problemi pratici di Pirelli sono invece relativi alla conversione delle linee produttive e dai tempi stretti di realizzazione. Ma l'importanza dell'evento per il futuro della sua azienda non gli sfugge. Illuminare la scala con la tecnologia di Edison, la potenza della centrale di Colombo e la duttilità dei suoi nuovi cavi è qualcosa che sente può cambiare il corso delle cose. Per la notte di Capodanno tutto è finalmente pronto in via dei filodrammatici e Colombo, accompagnato da Pirelli, da ingegneri e dirigenti Edison, può trattenere il fiato in attesa di uno spettacolo che li lascia meravigliati. Tutte insieme, emanando la luce di un piccolo sole, 2880 lampade a incandescenza si accendono a illuminare il futuro. Alla Edison fu concesso un palco in proscenio perché gli ingegneri della società fossero sul posto a osservare da vicino, durante opere e balletti, il funzionamento del nuovo sistema di illuminazione. E il 2 gennaio 1884 il Corriere della Sera racconta: coloro che si propongono di applicare l'illuminazione elettrica su grande scala nella nostra città hanno ottenuto ieri sera il più grande, il più serio, il più clamoroso successo. Il futuro arriva a Milano quella notte di Capodanno del 1884. Il merito è di due uomini, due ingegneri, amici e sognatori, ma anche persone molto pratiche e determinate. Pirelli realizza i cavi a tempo di record, 4 mesi dalla delibera di fine agosto del Consiglio Comunale. Colombo ha mantenuto le promesse, dimostrando l'efficienza e la potenza della centrale elettrica da lui voluta e costruita. Il clamoroso successo di cui parla il Corriere si deve essenzialmente a loro, autori di un favoloso regalo ai concittadini che li farà passare alla storia della città e non solo. Dopo la scala, i due ingegneri proseguono per strade diverse. Giuseppe Colombo continua la sua attività di professore e divulgatore al Politecnico di cui diviene rettore nel 1897, affiancandola quella di uomo politico che lo vede presidente della Camera nel 1900. Giovanni Battista Pirelli, vinta la sfida della scala, è a capo di un'organizzazione aziendale sempre più solida. Sul finire del secolo si dedica alla fabbricazione di pneumatici, destinata ad assumere in breve tempo una posizione di primaria importanza sul mercato italiano ed estero, fino a divenire la Pirelli odierna. A illuminare il loro ricordo e la loro storia, la luce di 2880 lampadine. Hanno ragione. Hanno ragione, mi han detto è vecchio tutto quello che lei fa. Parli di donne da buon costume, di questo han voglia se non l'ha capito già.